Radio 24 Reportage. Milano, luci della periferia, di Dario Ceccarelli. La mia storia non parla di gloria, te lo rammento, perché per me sto suono suona come un lamento che sento nascere dentro me. Questa è la storia di un randagio made in Baia. La mia storia non parla di gloria, te lo La canzone che state sentendo non parla di gloria, ma parla della vita di uno dei tanti ragazzi della periferia di Milano che si è perso per strada. Forse per un iPod, forse perché alle spalle c'è una famiglia che non funziona. E poi perché, diciamolo, non è facile vivere in quartieri che rimbalzano sempre nella cronaca nera. Quarto Giaro, Comasina, Corvetto, storie borderline che conosciamo, furti, droghe, immigrazione, scuole che non funzionano e un futuro che non c'è, come racconta Don Gino Rigoldi. Molte volte questi ragazzi proprio hanno anche un vissuto che respirano a Milano e nei suoi dintorni, questo vissuto che siamo circondati da nemici e guardiamoci le spalle perché intorno a noi non c'è potenzialità di amicizia, di relazione, di comunità, ma c'è rischio che ti portino via delle quattro cose che hai. E questo si traduce in una bassa stima degli altri, dell'umanità in generale. E questo li frega ancora di più perché si diventa forti alleandosi, facendo amicizia, mica restando guardinghi a guardarsi le spalle. Io racconto verità, narro la mia vita. Guardarsi le spalle e progettarsi un futuro. Questo è il problema. Soprattutto è un problema se la città non interviene. Paola Prandini, responsabile delle attività del Beccaria. Non c'è nella progettualità di Milano, ma non solo di Milano, cioè non c'è un'attenzione a prevenire una serie di disagi, c'è un'attenzione a controllarli, che è un punto di vista che cambia completamente l'approccio e quindi anche poi in realtà non favorisce un fermo della crescita di tutto questo degrado, tende a bloccarlo dopo, ma un blocco che diventa solo controllare, mettere qualche poliziotto in più o dare un'attenzione da quel punto di vista, ma non vuol dire farsi carico, entrare nelle scuole, avere a che fare con le famiglie, fare dei servizi che si fanno carico di una fascia d'età. Poi alle vecchie difficoltà si innestano quelle nuove. Ancora Paola Prandini. Adesso ci sono molti stranieri che hanno i familiari qua, per cui non sono di seconda generazione, ma quasi. Però molti ragazzini arrivano in Italia non accompagnati ed effettivamente non trovano un terreno fertile d'accoglienza. Allora, un ragazzino che ti arriva, che non parla italiano, che arriva a Milano, non conosce nessuno, non ha un posto dove andare a dormire, non ha un posto dove mangiare. Le uniche persone che può trovare sono connazionali, spesso sono connazionali che vivono alla marginalità. Tanti problemi, tanti corticircuiti che scattano anche nelle cosiddette famiglie normali. L'avvocato Giuseppe Vacciago, collaboratore del Beccaria per diversi progetti educativi. Per quanto riguarda gli italiani c'è invece un atteggiamento, forse perché lavoriamo troppo mi viene da dire, forse stiamo troppo poco attenti ai nostri figli e quindi talvolta succedono episodi, adesso non perché voglio enfatizzare Erika ma per portare un esempio per tanti altri, dove magari il rapporto difficile che si genera tra genitori e ragazzi può poi portare a dei reati gravissimi. Continuo il mio cammino sicuro qui dalla Baia dei Nessuno. Eppure anche nei casi più difficili non tutto è perduto, a volte basta accendere una speranza che faccia uscire dalla solitudine. Due tipi di sostegno, a parte quello scolastico, sono efficaci, lo sport e la musica, vero Vacciago? Servono tantissimo, io sono anche il presidente di un'associazione che insegna musica all'interno del Beccaria, quindi certamente parlo perché ho questa esperienza. Il problema appunto dell'integrazione viene superato attraverso lo sport, attraverso la musica, attraverso il teatro, sono tutte attività che fortunatamente nei carceri milanesi vengono svolte e che generano tantissimo spirito di gruppo che talvolta manca e forse aiutano anche a far venire fuori, a far emergere delle problematiche che i ragazzi hanno, in maniera più soft forse di altri rapporti per esempio che possono avere con lo psicologo, che comunque sono fondamentali, ma sono un sostegno molto importante sia per l'integrazione sia anche per il cosiddetto ripensamento del reato e quindi proprio la forma di rieducazione che la nostra Costituzione prevede. Una seconda chance, a volte basta poco, avere la stessa maglia, allenarsi insieme, dividere una speranza di vittoria. Può essere il calcio, il rugby, il basket, la pallavolo. La psicologa Sabina Frontino della Fondazione Laureus, una fondazione che cura con successo molti progetti rieducativi, ci racconta l'utilità dello sport. Serve perché va ad incidere su molte cose. La prima è la possibilità di avere delle relazioni, cioè poter stare con altri ragazzi come loro, condividendo una passione, che anche questa è una cosa fondamentale. Cioè, quando uno ha una passione che segue, ha un obiettivo anche nella vita che può portare avanti. E se vedi che ci sono altre persone che lo fanno con te, magari anche degli adulti che ci credono, questo amplifica il ruolo che può avere. E l'altra cosa bella è il poter spostare questa cosa di far rete qui all'esterno. Perché poi i ragazzi si incontrano anche all'esterno, diventano amici, è un modo per fare anche altri tipi di attività e condividere nuovamente le passioni. Questa è la cosa bella. Non solo, a volte le parti si rovesciano. La cosa bella è che noi adulti apprendiamo dai ragazzi, perché sono loro a spiegarci quali possono essere le strategie per relazionarsi con loro, ma anche il modo di affrontare la vita stessa. Cioè il vedere che queste cose poi funzionano, te le porti a casa, e io che faccio la psicologa anche in altri ambiti con altri ragazzi, utilizzo le loro stesse strategie. Lasciami andare, lasciami andare, lascia che il vento mi porti con sé. Andrea Zorzi, grande campione di volley, dà una mano a questi ragazzi con grande passione e ribadisce: ma io credo che lo sport in ogni caso, non solo per i ragazzi che hanno qualche disagio, ma per tutta la popolazione in generale, vecchi, giovani, adulti, sia una grandissima opportunità. Perché uno sport, lo sport insegna ad avere disciplina, ad essere determinati, a rispettare le regole, a collaborare con gli altri. Tanto più questo vale per chi vive in contesti magari un po' disagiati, come nelle periferie. Credo sia importante quindi creare ambienti virtuosi, dove le regole sono chiare, dove vengono fatte rispettare, dove è chiaro il senso della collaborazione, e lo sport in questo è una grandissima opportunità. Io amo dire che lo sport è bianco e nero, c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi fa le cose giuste, chi fa le cose sbagliate. Nella vita invece viviamo in toni di grigio, ecco perché anche dal punto di vista educativo lo sport è una grande potenzialità, non è garanzia di successo, perché va poi strutturata, organizzata nel modo migliore possibile, ma non c'è dubbio che può avere effetti positivi notevolissimi. Anche il rugby come sistema di recupero dà ottimi risultati, ce lo racconta il collega Giorgio Terruzzi, impegnato in questo progetto al Beccaria. Com'è nata l'iniziativa? È nata dopo una conversazione con Gino Rigoldi. L'idea era di provare a sperimentare uno sport basato sulla gestione dell'aggressività con ragazzi che hanno quel problema lì. L'abbiamo provato noi del Rugby Milano, abbiamo iniziato a settembre con grandi risultati, nel senso che nonostante le difficoltà di regole, di cultura, i ragazzi restituiscono moltissimo, devo dire, salvo qualche caso, ma sono molto positiva per il momento. Qualcuno potrebbe pensare uno sport violento per ragazzi violenti, è così? No, non è uno sport violento, è uno sport che ha un sistema di regole molto forte, molto dentro una situazione di combattimento. Questo è in realtà determina una disciplina, cioè, se uno non è disciplinato semplicemente non gioca a rugby, non può giocare, va fuori. Lo dico non da appassionato, penso che il rugby sia perfetto, lo stiamo verificando ogni settimana, proprio perché costringe ad occuparsi di sé, a dare una ragione al giocare e una relazione con gli altri, in una situazione estrema, e questo funziona. Naturalmente non poteva mancare il calcio, il gioco più popolare. Sognano di diventare come Pato, ma intanto giocano in una squadra dove bisogna imparare a rispettare le regole, i ruoli e soprattutto saper interagire con i compagni. Tu come ti chiami? Mi chiamo Abdul. E quanti anni hai? 17. Da dove vieni? Sono egiziano. Ti piace giocare al calcio? Ah, troppo. A che ruolo sei? Attaccante. Cioè, ti piace segnare, insomma? Sì, certo. L'ho fatto 26 gol per 14 partite. Nella vita, oltre a giocare a calcio, cosa fai? No, mi piace giocare a calcio, voglio giocare a calcio, sì. Ma ti piacerebbe diventare un giocatore vero? Sì, certo, voglio giocare con il Milan. Spero. Qual è il tuo idolo? Pato. Pato? Sì, mi piace lui perché è veloce, è bravo. Sono Emin, ho 15 anni, della Macedonia. Qui ti trovi bene, com'è? Sì, ma mi trovo molto bene. C'è gente che mi capisce per quello che sono, non per quello che ho. Perché fuori di qui non ti sentivi capito tanto? No, fuori di qua, cioè, conosco la gente da tanto, però non è come... La gente qua non mi piange come... E in Italia quando sei arrivato? Nel 2002, con mia mamma, mio padre e mio fratello. Ti piace Milano? Sì, è una bella città. La scuola? Anche la scuola. Con poca voglia, però... Nella vita cosa vorresti fare? Io vorrei diventare un ingegnere. Un ingegnere? A parte il calcio, dopo vorrei diventare un ingegnere. E qui col calcio? È solo un hobby, solo per giocare, per divertirsi con gli altri. Lo sport è d'accordo, ma la scuola quanto aiuta per il recupero tornare in un'aula scolastica? Maura Borghi, professoressa di lettere al Beccaria, ci risponde così. Io parto sempre da quello che un amico psicologo mi diceva. Lavorare con gli adolescenti è come fare una partita a scacchi con un ragazzo, abituato a fare sempre le solite mosse e quindi abituato sempre a sapere come va a finire la partita. Quello che io devo fare è fargli vedere che esistono mosse altre e poi sta a lui decidere se seguire un altro tipo di gioco, se continuare a fare quello che l'ha portato qua dentro. L'anno scorso uno dei ragazzi italiani che c'era era convinto che il sangue di un extracomunitario era diverso dal suo. Alla fine del percorso scolastico è rimasto con delle sue idee, ma ha fatto uno spostamento dicendo: io so che non è così. Poi io posso avere le mie idee, ma so che la realtà è un'altra. Lascia che io vada.